sentito, se no, un'ora fa. Stavo rientrando, buttavo la spazzatura, spagnolo del 50, c'è mia figlia. Gli ho fatto il mobiletto. Spero che le piaccia. Ma già finito di lei. Scappa. Non me l'ha fatto, adesso è venuto bello, ma quello che mi ha mandato la foto che era in costruzione. Scappa, aspetta, ma... Allora... Ma non ci siamo niente. Mordicchio, questo qui è buono. Radicchio. Mordicchio. Che c'è questo mordicchio? Allora, sono nocciole con il cattò. Mordicchio, capito. Sembra di vedere i gavati. Allora, ti mando quella che c'ho sul retro, che ho avuto lo spazio per entrare il PL a parte, il lato... C'è quattro recipatori di calore, poi ti mando quello in avanti che gli ho mandato. Allora, dov'è la tua foto? Manuele, Manuele. Allora. Ma non gli si occupa la foto. Guardami quella del mobiletto finito. Non me li mandate a me, finito, adesso che l'hai finito, mandami quella finita. Che mi dovesse venuto bello. Ok, allora, eccolo qua. Allora, aspettiamo a te, andare su WhatsApp. Ok. Dunque. Ecco qua, Claudia. Invio. Ok. Inviato. Sì, è già arrivato. Perché gli altri me le già mandate, quella quando era in lavorazione, quindi io già mi divorzio. Vediamo qua, Kawasaki Moto. Bello, che c'è questo colore? No, non è possibile, cazzo. Minchia. Se l'ha comprato, cazzo. Bello, eh? Bello. Cassetto unico o due sono? Allora, ci sono due spazi, uno per mettere il mare sopra, ci vuole mettere il computer. Il primo spazio ci ha fatto il fuori grande, uno per il Galaxy e l'altro per l'altro che c'è sotto. Infatti sopra i 17 cm, di spazio sotto i 12, che sono più bassi. Poi c'è un cassettone enorme, quel cassetto ci sta quasi lui dentro. Profondità, allora, posso dire 50 per 40 e di profondità mi serve 36. Un bel manno, ci mette tutto quello che vuole lui. L'ha voluto lui così. Benvenuto, bello. Tutti i chili andano lì armati. Bello, sì, bello, una bella base, così c'è spazio. Sì, sì, molto bello. Tanto per la roba che c'è lui, quello è più che sufficiente, a voglia. Gli ho messo anche le ruote, per me lui l'ha avuto con le ruote indietro, così la puoi spostare e girare quando vuole, anziché sollevarlo di peso. Le ruote ci vogliono, io ho proprio computer, non ce le ho con le ruote, se no ti graffia il pavimento, graffia tutto, c'ho le ruote, un porta computer, scrivania e porta computer, stanno due computer con due unità, insomma tutto grande, a base quell'altra uguale a questa, ho tolto tanto la radio, le ho tutte rimezzate, quindi non deve stare lì a tenere basi e controbasi. Quindi ho preso una per il computer, va bene. Ho mandato la foto di quelle che ho già preparato in partenza. Ui, ragazzi, tanto gioco che cazzo, cazzo, manco mai non devo travagliare, per carità, ho solo la domenica, cazzo così. Ieri, tutto il giorno in campagna facendo. Stamattina lo stesso, poi è venuto Mario, abbiamo pulito tutto il canile. Nuovo per non so cosa gatto di Silvi. Meno male c'è fresco, cazzo, basta dite io, dopo quando ce ne rientriamo, infatti di sogno è stato che erano le 5. Ho fatto la luce qua, adesso fra un po' non scendo col cane. E poi basta, finito. Scusa! Allora se vedi qua è andato il mobiletto, non le ho fatto anche la foto. L'ho tutto smantellato. I pezzi su li ho utilizzato soltanto tre pezzi. Boh, tutte le sono messo io. Mi dice, io oggi ho riposato. Avevo tutto in casa, la 50 con la mia figlia. E poi, ho cucinato con le mezze penne con la gorgonzola e il pesto. Mi è piaciuto un bel. È buono. È pesante, ma è già buono. È buono. E se avete un po' di radicchio, facevi il lavoro, questo radicchio veniva capolavoro. Io mi direi, ma dite ieri quando ci siete mandato un messaggio, all'improvviso sono arrivata gente, quindi sono andato a casa, sono uscito ieri sera. Questa mattina mio genero ha deciso di fare queste cose, quindi ci siamo messi, poi mi ha lavato la macchina, poi ho dato una pulita alle foglie, agli aghi dei pini, tutte quelle cose. E quando c'è campagna c'è sempre da fare, cazzo, non andava. E nulla, basta. Adesso vediamo un po'. Se il tempo continua, magari qualche altra settimana ci può anche stare, però martedì, mercoledì e giovedì fa brutto tempo. Questo martedì cioè, c'è un temporale allucinante, cazzo, mi toccherà staccare anche le antenne, cazzo, di quelle poche radio che sono rimaste. Mica fa. Ma mi spero che insomma a fine settimana che la può fare bella giornata. Le previsioni sono domani è ancora buono, martedì c'è temporale forte, mercoledì e giovedì c'è acqua, poi non so se venerdì, sabato e domenica fa bello, ma ha detto anche la TV, c'è una perturbazione per la Sardegna, per il nord e per il sud, un po' meno al centro Sardegna, però nord e sud di Sardegna passa questo temporale allucinante, no, per farlo passare, c'è un bel culo. Dentro casa, chiuso, mi dispiace se no, non posso uscire perché ormai si voleva, non è che mi piace assai, la verità, comunque, già va bene lo stesso, qui già fine settimana già ci sentiamo. Un cappa. E sto dicendo, per fine settimana se fa meglio, qua, non prendi il sabato. Ci ritroviamo di nuovo qua, dai, e ci organizziamo qualcosa. Capito qua? Aspetta un secondo, tu niente. Ehi, chi è che fischia? Beh, allora, tua madre non c'è, è tuo padre. Fabio. Eh? Chi è? Ciao, c'è con me. E beh, Tony, chi c'è qua? Qualcuno stava fischiando, Claudio, è qui, un attimino. E sei stanco, eh? Eh? E sei stanco. Sì, stanco, ya. E sono a baciare la causa. Ma tu ti rendi conto quando mato quel mobiletto com'era? All'inizio. Cos'è? Te lo ricordi come me l'hai dato quel mobiletto? Baciare il dei. Sì, e beh? Adesso è inventato un signore. E poi mi ha scritto bombo. Si scrive bombo con l'accento sulla O. Una bomba voglio scrivere. Che il T9 è andato a fare cavoli su. E toglielo. Sì, lo tolgo. A me mi scrive tutto il cazzato lo stesso, non riesco a toglierlo. A volte ho scritto, sto stirando la roba. Ho rinviato, mi ha detto, stai stirando la donna. E ci ho mai detto che cazzo. Chi è che vuole entrare? Avanti, chi è che vuole entrare? Non ne voglio, vabbè. Le foto, avanti, dai. Eh? Le foto, avanti, dai. E? Fa, mandami. Mi dice, lo mandatemi, no. No, non mi hai mandato una. Mi hai mandato le foto dell'antenna. Attimi, aspetta. Ero convinto che te lo mandate, aspetta. E in arrivo, in arrivo, in arrivo, in arrivo. Allora. Manuele, eccolo qua, questa volta l'ho già inviata, invio definitivo, via, ecco, inviata. Questa qua. Mi sono inviato, lo so io facendo. Cos'è? Sono inviato, le faccio della mazzetta. Sì, così è buona ora. Se vedi come ho messo la pantellino, luce di cubro, quello a curva, ogni casino. Oh, Manuele. Provo a parlare in PMR, allora se riceve quell'antennino che ho fatto una modifica. Eia, vai. Parla. Zitto un attimo, raga, mi pone la frequenza. Io avrò memorizzato la frequenza. Ah, una grande di attaccare, prima non arrivi a lupo con chissà. Che frequenza sei, fa? Alle 7. No, non sto parlando io. Tu non arrivi con l'antennina piccola, ma ora voglio vedere. Alla grande. Allora, antennina piccola c'è uno, però è quella piccola mi chiama detto tu. L'ho modificata, l'ho fatto l'attacco PL diretto. Tagliato quello suo, usato lo stilo, ho infilato dentro un PL e soldato in punta, capito? No, tu ci arrivi tu lì con l'antenna grande, non ce n'è problema, con l'antenna piccolina no. Ok. No, con l'antenna. Con l'altra radio sì che arrivi, siccome ne ho due. E una sto provando con l'antennina che ti ricordo dovevo mettere in macchina. L'ho tagliata e fatto l'attacco PL. Con quella non arrivi, ma è nella finestra, Emanuele c'ha l'antenna quella grande, capito? Però con l'altra radio, col 599 ci arrivi con la Linco. Io sono sempre quella come avete messo voi, con la piastra è messa sempre lì. Adesso ne ho piazzato un'altra là, chiamato Manuele. L'ho messo provvisoriamente, devo non dargli il cavo, poi modulerò quello lì e adesso esco come esco. Ma sempre tipo quella che ti ho aperto io? No, è diverso. Adesso ti mando la foto. Mandami la foto, vediamo. Se è come quella che ha Manuele, bisogna piazzarla subito quella, perché quella lì esce molto bene. Capito? Aspetta, la guardo. È tutto a destra, eh? Prende a destra? Si vede l'antenna centrale 27, quella che hai messo tu, e l'altra è la mia, che ho messo stasera. Ah, quella tipo Grand Prix, quella tipo Grand Prix. Ho capito. Sì, vanno benino quelle antenne, bisogna vedere se irradia bene, se per questa per la frequenza PMR, capito? Perché quella lì, quella che ti ho dato io, è per quella frequenza, infatti arrivi benissimo. Quella bisogna vedere se è per quella frequenza. Ma non me l'hai mai detto sì. Vedi una bella burba in me. Ehi, Fugiaro rivendi, Anto, ciao, buonasera. Ciao, ciao, buonasera. Ma sei a Carbonati adesso? Dove? Carbonati, sì. E io? E ti arrivo lì? Santiago 9, arrivi più forte in campagna. Vero? Sì. Come arrivi forte? Santiago 9 arrivi Anto. Evidentemente io ti vedo e tu no. L'hai provata tu, la stavi provando? No, l'ho solo piazzata la sera, sono stanco, dato una cosa all'altra. Non l'ho piazzata, ciao tu io comunque. Niente, la proverò più là perché il cavo è corto, quello che ciò che mi è rimasto, capito? Ah, mi non mi buca l'altro. Magari quando ci vediamo un po' di 58 già ce l'ho io. Si fa e si attacca per provare, capito? Vediamo un po'. Io vi saluto e devo portare il cane, ok? Sono entrato e ancora da luna che non lo porto. Ho fatto dei giorni di campagna, adesso bisogna portarlo qua. Ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Se no ci aggiorniamo via motozappa Manuele e Tonino, ok? D'accordo, Cla. Buon venerdì, buona passeggiata di Baobab. A più tardi. Ciao, stammi bene. Avanti, Manuele. Ciao Cla, ci sentiamo, dai, buona continuazione di serata, dai, alle prossimine. Vai Tony. Aspetta Antonio, avanti. Ciao capa, saluto Tony Claudio, ci sentiamo alle prossime. Ciao Antonio, anche a te, dai, a dopo se coincide, io tanto lo porto al cane e poi risalgo. Ciao a tutte e tre, a dopo. Capa, ciao ciao. Antonio, che zona sei tu? In zona Corso Vico. Ah, già è vero, te arrivo bene allora qui. Capito, ha spiegato il volume. Ho detto, già ti arrivo bene a Corso Vico. A voi già mi arrivi bene, Tony. Forse meglio anche della Terolce. Meglio della Terolce, cioè? Che prima era la Terolce modulato. Ah, è Corso Vico, mi ascolti meglio. Scappa. Andà bene. Avanti, canale a pesca. Ehi, canale a pesca. Bubu, canale a pesca. A me che non mi sente nessuno. Voglio che arrivi qua. Cos'è, bombolo? Voglio che arrivi qua. Arrivo anche io. Ma capo, arrivi anche tu, arrivi. Meglio così, dai. Pensavo che non arrivi a Corso Vico. Vinco, pescato hai. Cos'è ti? Ciao. Ho detto sei pescato. Ehi, pescato. Ui. Lì devo attaccare un mulinello, giuro. Ma scusa la finina, ma non l'avete messa su? No, non ho messa su. Cazzo, non te l'ha detto Luca, perché? Non abbiamo avuto modo di parlarne, dai. Quindi è ancora giù. L'ho lasciata giù in giardino, sì. Perché diciamo, abbiamo messo su base a TV a Iannazzo. Ah, sì, scusa, sì, sì, devono lavorare. Allora, ciao Antonio. Buonasera, buonasera. TVI, e addirittura. Per carità, facciamo sempre, sempre fastidio, vanno. Meno male che non ho fastidio a nessuno io. Noi siamo in campagna, Antonio, quindi. Ma io ho anche abitazione vicino a me, però non do fastidio né a fianco a me e neanche a quelli giù di me, quindi vabbè, siamo distanti, il più vicino sono a 25 metri circa, l'altro 50, però non disturbo nessuno, fatto provo, metto quarto. Allora ne ho uno più vicino di te, io lo provo a, boh, a 20 metri neanche, proprio, e l'altro invece un po' a 50, siamo così da... Siamo nella soglia quasi precisa. Abbiamo 6 metri di palo, più lontana che circa 7 metri. Però giustamente con Claudio ha detto che la alziamo un altro po' per il sicuro. Anche 2-3 metri, così va bene. Andiamo e andiamo. Grazie, Bobo. Sare. Tu? Andiamo e andiamo, Bobo. Grazie. Io Bobo. Bobo? Sì, ma perché se sono con quello? Ah! Perché se sono con quello? E con quello devo uscire. Togli il bizzo che è. Cosa? Togli il bizzo. No, posso togliere, è 3009. Ah, è vero, ciao Lu. Ciao anche a Tonino e a Claudio. Claudio, avanti Claudio. Non c'è Claudio. Vabbè, Tony. Io devo sempre passare da te, vado una cosa e l'altra, qua, là, un casino, guarda. Adesso, fino a male che ho finito l'ultimo bulbiletto, posso ben nulla. Appena sono libero, passo da te e mi guardi quella questione là, Luca, comunque ciao, ben entrato. Anche io ho un po' di impegni, dai. Facciamo qualche lavorettino e... Dipende magari dal giorno che sono impegnato, un casino. Tanto va, un giorno che non sono impegnato e si fa. Oh, scusa un attimino, Luca, ci sentiamo domani sera quando rientro. Allora, domani sera io sono qua, Per vedere la mamma? No, qua, da Marina. Ah, va bene, ti faccio una massa quando sto salendo, così almeno ci vediamo. Sì, è perfetto comunque adesso, non è lento prima, ma lento, è perfetto. Bene, va bene. Io. E me è finito hai giù, il tabacco? No, finito no, anzi, stiamo preparando ancora le macchine per poter andare a Bolsa e poi a Valle d'Oria. Ma che cazzo è questo traliccio più alto? 30 metri. Cosa? Il traliccio quanto è alto? Ah, no, vabbè, là hanno finito lì. Ho fatto due lavori di contemporaneamente, ecco perché... No, lì è 25 metri tra lì. Spaventoso, bello, grande, cavolo. Poi, vabbè, hanno finito di fare una cubica, mi sembra che per braccio sia 13 o 14 metri, non ricordo. Quindi tu immaginate un quadrato che fa 14, 14, 14, così via. Come sei sacro? Sacro sono. Sacro, ma non hai toccato il microfono. Sei compressa la radio, è molto compressa. Sì, c'è anche più alto il segnale, te lo dicevo poco fa io. Ho migliorato? Più alto il segnale e poi tra l'altro il saturo. No, ma io faccio, guarda, non ho niente attaccato la radio, ho fatto toccato il mic e ho spolverato facendo. Dino, io sono apparato serio, con le fighe a 0 7 5, adesso 6 7, qualcosa c'è. Poi mi guarda, si prende la radio, aspetta che... questo è un intec, forse sicuramente ho toccato il micigame, guarda un attimino, abbasso, guarda vedere se ha cambiato qualche cosa. Non è compreso nulla. Sei sempre quasi sette. È compreso un betti, ma non è chiara. Non siete passati lì sempre di due. Lascia perdere il segnale, non c'è niente il segnale, la radio. Noi andiamo un po' migliore, però lascia perdere il segnale, sulle aziende. Leggermente si cerca di farti più un disattro. Guarda, io ho interrato il dato della radio, guarda. sotto un quarto tutto basso, ma mi metto tutti bassi, sotto tutto basso. Ecco, compagno, entrata che hai fatto, e così, saturo a 1000. Beh, troppo confermare anche Luca. Confermo. Sì, non è chiara, è un po'. Purtroppo sembra spinta, sembra che sia agganciato e stai pompando, là, con qualche watt in più. E non è chiara. Segnale, vabbè, non se ne frega niente, segnale già è buono, però dico, la radio non è buona, ti è. Hai confermato tutto. Ho passato tutto qua. Tutto per farti. Vediamo, tu mio. Cazzo, basta il segnale, il fatto. Dove c'è il microfono? Guarda un attimino, migliorato, ho solo fatto la scarica, boh. Come radio è buono adesso. Sì, ma aumentando il microfono del Mikey Gain non puoi mai aumentare il segnale, tipo. Ma io che sono già le frequenze. No, ma è. Ti spiego, allora, questo ha il water regolabile, c'è un problema perché era stato un eco, però tu sai cosa, questo ha il water regolabile dalla radio, quando io, guarda, aumento, adesso tieni presente il tuo smicco, guarda, io se sono a zero, da me darà 5 watt, sì esatto, guarda adesso quando aumento. Non ho fatto cambiamento. Sì, ma la radio non si capisce nulla, tutto saturo. Appunto, ecco perché l'ho riabbassata. Sicuramente ho toccato pulendo il mic, non lo so se sta andando bene o male adesso. Scusa un attimino, qua c'è anche la Galaxy. Io adesso abbasso RF Power, guarda un po'. Sono abbassato il segnale, Tino. Guarda bene il segnale, così è un primo passaggio. Adesso aumento piano piano, guarda. Hai notato differenza? Sì, vai appena comprime e addirittura togli i rumori esterni, quindi è logico va un po' a schiacciarsi una persona, però voglio dire, io ho toccato sicuramente il microfono, il MSG5, tutto è benissimo che al Michigan e il tono, magari pulendolo, forzandolo, facendolo, adesso sono un po' senza anche entrare in radio, quindi non mi ricordo neanche più la posizione, ecco perché ti ho chiesto come va ora. Vabbè, ma non vai in saturazione quando tu aumenti, perché la differenza è pochissima, è dei 4 watt che dà realmente poi fino a 10 watt come saturo, ecco. In saturazione, cioè, il tuo pensiero del segnale aumentando un bel po' da 7, con le figlie a 0, da 7 a, cioè da 5 a 7 di colpo, la legge satura è proprio esatto la satura. Comunque non si capisce proprio la radio, forse lontananza sì, va bene, però in città lascia così, Tino, perché è più meglio così. Tony, ti ripeto, non ho niente attaccato, poi se vuoi venire a casa a controllare, la cosa è stata toccata dall'interno questa radio. Sicuramente ho toccato il mic e non riesco a... ho anche un altro cosa qua, che cazzo era, non mi tocco neanche di questa roba, no, questo vuol dire. No, adesso va bene. No, tranquillo, io vieni a casa tua a controllare, a vedere, adesso me lo stessi me. Se ci vogliamo vedere, che ci prendiamo un caffè, che siamo una vita senza vederci, mi fa un immenso piacere, quello mille per mille. Va, mancherebbe altro, non mancherà occasione. Vabbè, è normale, la radio, se è amplificata, non so, io, vabbè, c'è un casino anche a casa, È amplificata e ultima. Bene, allora, sicuramente ho toccato il mic, perché adesso mi sembra che sia, non lo vedo neanche, figurati. Allora, adesso è a 2, guarda, poco qua ce l'avevo così, così è, va male, vero? È forte, però non è satura. Boh, è così, va meglio, 1, 2, 3, proprio di modulazione. È bella piena come radio, bella amplificata, ma non è satura. Bene, lasciamo così allora. Sai che provo altra, con questo mettiamo altra. Certo. Manuele, Luca, Manuele. Ecco qua, quindi questa è l'altra, Questa mi piace di più, è bella squillante e bella chiara, forte. Capo, vabbè. È tutto un altro pianeta, come si suol dire, questa è più selettiva. Ma l'altra la uso così per giocare, stamattina per dire la verità ero, perché anche la locuzione è qua, quindi ero in 555 facendo un po' di DX. Però mi dico, come segnale leggermente più in basso. Vabbè. Cappa. No, vabbè, io preferisco più questa qua, perché c'è una radio bella chiara proprio. accesa e tu vabbè non è affatto. Ma è buon mattino dai. Tu sei in campagna intanto? Sì, sì. Ti arrivo bene là, sì. Come? Ti arrivo bene, sì. Aspetta, non ti ho capito, ce la faccio a casa. Se ti arrivo bene lì in campagna? Sì, ho voglia. 9.15, radio 5. Ok. Sto usando quelle carne io. Il super si dedica, sì. Già va bene. Luca! Scusate, mi stavo mettendo dopo il sole perché oggi mi sono non bruciato, però sono un po' abbronzato e ci vuole dopo il sole. Non ti sei messo sotto l'ombrellone? Sono stato l'ombrellone, poi la passeggiata, quella e vabbè pazienza. Tanto mi sa che dice che continua il caldo, Meglio, mi interessa dal 10 al 15, poi la voce della radio. Vero un bel acquazzone. Infatti, dammi una ciocca a Baghissa. Speriamo di notte. Davvero. Comunque il telefono è uscito perfetto, Incollato alla perfezione. Bene, io ci vediamo domani. Allora ragazzi, ne approfitto ora che ormai che ci sono bambini fuori e esco ancora un pochino a giocare con loro e poi duccia e quant'altro. Ci sentiamo, fatemi bene, un abbraccio. Non mancherò Tony, dai, qualche giorno ci sentiamo, ci vediamo. Caffa, mi fa piacere. Ciao Tina, allora ci sentiamo. Locoretti, locarica, ci sentiamo la prossima, avanti Luca. Anzi anche Antonio in parcheggio, avanti Luca. Allora, ci vediamo domani, ti chiama per quello, manda un messaggio, qua o su, dove vuoi tu, non c'è problema. Che è Antonio, avanti Antonio. Sì, è Antonio Bongo. Va bene, sentiamo io quando sto facendo. Ciao. Antonio. Dai, anch'io mi aspetto che ho fame, dai. Mangio qualcosina e poi dato tra un po' andrò a casa. Se ci siete dopo, magari aggancio a casa. Dai, ci sentiamo dopo, magari tu lì, se ci siete. E il capo, Luca, ci sentiamo allora. Ciao, virtuali ascoltatori, ciao a tutti, a più tardi. Ciao, ma noi se ascolto ci sentiamo dopo. Ciao. Tori, ma che si deve fare una buona buccia? Il telefono è a posto. Oh, mio figlio al telefono mi ha appena chiamato. Sei occupato. Oh, ma io sei dottore occupato perché mi ha chiamato mio figlio, sono con la linea aperta. Ho detto un attimo che a mio figlio faccio con X che sono al telefono. Aspetta, ti chiamo appena chiuso con mio figlio. Ok, dai, a dopo. Ciao. Ma stai chiamando, mi sa chi mi salvate. Perché devo salire le scale per andare a rispondere, perché mi stavo ascoltando giù. Cazzano pesce. Pesce di biazzi. E chi è questo? Giovanni. Oh. Andiamo, dove andiamo? Cazza. Bobbo. Giovanni Antonio sono, mi senti? Ciao Antonio, buonasera. Ma Giovanni, ma l'antenna ti è piazzata? Ho visto adesso, poi sono passato nelle tue coordinate. Ero lì vicino a casa tua, sono andato a prendere una commissione. E visto l'antenna ti hai messo. Eia. Va tu beh, tanto va benissimo, arrivi a fondo scala qua. Io come ci arrivo lì, Giovanni, ci arrivo bene. Li sto bando stiamo con l'antenna. Eia. Cazzo, bubù. Ciao Giovanni. Ci sentiamo, va. Vabbè, ciao Giovanni. Ma gamba, bene, ti arrivo lì alla veloce. Anzi, una bomba, sì. Sì, vabbè, nelle mie possibilità. Siamo vicini. No, io non sono più lì. Eh? Sono più lì. Lo so che non siamo più lì, non sei più lì. Sì, in Corso Trinità. Corso Vico, per l'altro, l'altra persona. Sì, capo, ma lo chiamo, vedi come ti siate. Lui, adesso come lì siete in Tindillo? Dimmi. Non già chiuso a te. Adesso è ok, vai, già ci sentiamo, stai bene. Yeah. Ok, yeah. Ciao Ivano. Ciao, saluto a tutti, ciao. E qua ero con mio figlio al telefono, capito? Ho capito. Va bene, io sono risalito. continui. Niente, c'è una fotocollettista, c'era Luca ancora, poi c'era Tino, poi ha chiuso. Antonio è sparito, boh. No, sento solo Antonio a te, ma no, non ho sentito altro nessuno. Va bene, niente. Quindi con l'antenna devi provare, vabbè, avremo modo di provarla, no, non c'è problema. Nel frattempo usa quella lì, non stare a staccare niente. Se vediamo, prima facciamo le prove, allunghiamo il cavo, le provi tutte e due piazzate. Vediamo, se quella là è superiore, allora una la stacchi e te la rimetti in macchina, capito? E usi quella lì. Però devo vedere io il segnale, perché se tu chiedi il segnale a quelli vicino non va bene. Devo vedere la differenza che c'è tra una e l'altra, la dobbiamo vedere assieme. K. Ok, metto il microfono. Sì, devo provare, infatti, cioè, vabbè, boh, non lo so. L'ho messa vicino provvisoriamente a clavere, capito? Mi manca anche il tubo, giustamente, mi sono arrangiato con un manico di scopa, eccetera. No, comunque, non me ne va a vedere a me di queste cose, Tony. Subito ho detto che ne ho quante ne vuoi, capito? Adesso la prova si fa così, così com'è piazzata. Si allunga il cavo un attimino e si fa la prova. Dopodiché si piazza bene, perché è inutile che la piazziamo e poi non si vede nulla. Tocca fare il droglio e abbiamo fatto il rudiscone. Vabbè. Quando poi c'è a prendere il tubo, me lo dici, salgo io. E allora c'è la macchina mia. Sì, anche io ce l'ho la macchina, quindi. Capito? Anch'io ce l'ho la macchina, perciò non c'è problema. Si mette il tubo, si porta e si tiene lì, si fa la prova, potete trovare il cavo, capito? Tiro il cavo, si mette le cose, devi comprare due PL perché non ne hai più, li abbiamo usati tutti, due PL e un barilotto momentaneamente, se no vediamo, non serve il barilotto perché ne ho una quindicina di metri, quindi già basta, 15-20 metri ne ho di RG-48. Ce l'ho sui mansarda, bisogna che salga. Me lo porti giù, così lo vedo, lo metto qua in sala radio. Trovo, si piazza e si prova. L'attacco come PL? K, proprio PL. Lando, lo so che anche tu hai la macchina, ma giustamente mi stai dando un tuffo. Cioè, vengo io con piacere mio di portarmi con la macchina mia. A me la posso sciupare la macchina tua che c'è in pelle. Dai, fai da bravo. Stai infierendo, ah bello bello, stai infierendo. La macchina che andò così brutta girava, capito? Ma a me non mi interessa, sei abbastanza grande e intelligente che hai capito il volo, bravo. Con la macchina mia. Ah, non ti preoccupare. Farà il tuo Claudio, ho detto tu bene, anzi domani devo andare in banca, perché devo fare due bonifici. Il figlio cognato, fino alla mattina alle 10 si appunto anche in banca. E poi salgo su, mansarda, mi scendo qua, il tubo è un tubo di quelli che ho, che va bene per lì, intanto la misura la so, o due, adesso vediamo. Le metto qua, e il cavo LRG-58, così è già pronto. Facciamo la prova, se quell'antenna va bene, che va meglio di quella che hai già montata, ok. Altrimenti la bigli e sarà buona a parte una e l'altra, capito? Perché devo vedere qua il segnale, tu mi devi fare stacca una e attacca l'altra, io ti dico va bene una è meglio dell'altra. E allora facciamo il lavoro fatto bene, capito? Perché alla fin fine manco ce ne vuole tubo, manco ce ne vuole tubo, capito? Manco ce ne vuole, capito? Ci vuole il capo e basta. Perché se quella là è superiore si toglie quella della macchina completa come è con la base magnetica e tutto, te la tieni per quando esci in macchina, e dove c'è quella base magnetica si monta quella lì. Ehi capo, facciamo la prova più là, vediamo, vai. Però ci organizziamo per la fine settimana, così c'è una bella rostita, ci facciamo qua, ci mangio una gana, ya. Perché poi va settembre passa, ottobre, buonanotte, novembre, è un casino. Tony, se fine settimana è buono ce la facciamo, però sappi che martedì, mercoledì e giovedì è tempo brutto, e poi stiamo lavorando qui quindi non fa, non fa. Fine settimana, tu intanto sabato non l'altro, poi sto mancato sabato, stavi lavorando tu, ma non è che lavori anche l'altro sabato? Sì, purtroppo sì, allora Claudio, noi che non lavoriamo il sabato, sono le ultime due settimane di luglio e tutto il mese di agosto. Poi, dal primo settembre in poi, tutti i sabati, fino alla fine di luglio, noi lavoriamo dal lunedì al sabato. Quindi sempre dalle 7 alle 2? No. Dalle 7 e mezza alle 2.10, 6 ore 40. E io? Ma è che lui mi sto venendo a pigliare. Vabbè, noi dobbiamo fare... Non dobbiamo... Ah, niente, ce la facciamo di sabato, sabato sera. Sabato a pranzo, vediamo, dai. Vediamo Tony, ci dobbiamo organizzare, perché se adesso tu lavori anche sabato mattina, non va bene il venerdì sera, capito, come abbiamo fatto l'altra volta, vabbè, ma l'altra volta è stata una lioglio veloce, anche perché non è che l'avevamo organizzati, vediamo, decidi tu, io il sabato non lavoro, non che non abbia qualche commissione da fare, ma penso che oramai è finita, ti ripeto, può darci questa settimana ancora, ma poi mia moglie ha portato già tutta la roba, perciò non penso che facciamo altro, possiamo andare la domenica, se bella giornata, come abbiamo fatto oggi, da ieri, te lo vedo, sono rientrato oggi alle 5, però mi sa che è finita, dai. Per me non c'è nessun problema. Ho notato io anche la domenica che non lavoro, io resto sempre fermo. Ma ho tornato a i messaggi. A me ho l'abitudine, anche se lo facciamo a venerdì, va bene a voi. Perfetto, a me non ci sono problemi. Io la mattina mi alzo sempre alle 5, non c'è problema. Anche se tra le 7 e mezza. Quindi, se viene bene venerdì, faccio venire, viene bene sabato, viene solo sabato. Dipende da voi, io problemi non ne ho. Capito? Adesso faremo di martedì, mercoledì, giovedì, non c'è problema. Il problema è vostro, se avete impegni, quello per l'altro, io sono a vostra disposizione. Tu mi dici, venerdì, quando ci fa non c'è problema, capito però? No, è per te, perché devi essere presto, visto quando ci scambiamo il buongiorno, anch'io ti rispondo presto, io mi alzo presto lo stesso, non c'è problema. Sono talmente abituato, ancora è troppo presto, sono passati solo 2 anni e mezzo, e quindi ancora è... Oggi mi... Stamattina ero un po' stanco, però a quell'ora mi sono alzato, 7:30. 7:30, perché ieri abbiamo fatto anche tardi, c'erano questi... questi fare la madre del mio genero, capito? E quindi abbiamo fatto tardi. Però per me, ti ripeto, non c'è problema. E poi, sappi una cosa, io non sono di quelli che... Gli devi dire, oh vai di maggio di Luca, io dopo cena, massimo un'altra mezz'oretta, come abbiamo fatto l'altra volta, un caffettino, un digestivo e poi io tutta a casa, non è che arriva mezzanotte e l'una, va bene, capito, perché tanto adesso fa buio presto, capito, cambia orario, fa buio presto, faccio quando inizia a rostire verso le 8:30, me ne pare buchi. Anche alle 9, dalle 9 alle 11 ha voglia di stare in compagnia, alla bui, pigi liberi e tavi, boh, ognuno a casa sua. Claudio, si vede che non mi conosci bene. Allora sappi una cosa, che io innanzitutto non mi permetterei mai a dire io non ci può fare prima pausa. A me quando vengo gli amici con la maiuscola, come te, come fiducia, eccetera. Pochi ma buoni. A me mi fa un immenso piacere poter mai anche mezz'ora per l'una, non c'ho problemi, io sempre quella la mattina mi alzo, non è esento, sono abituato così. Quando molto solo, non frequento quasi nessuno, eccetera, eccetera, e quindi per me è festa, per me è sempre festa, lo sono gli amici, guarda, grazie, non ho problemi. Posso rimanere, ti ripeto, anche le 2 del mattino, io non ho problemi. Quindi, ben vengano le persone, o giustamente con la maiuscola, capisci a me. E quindi niente, quando poi tu avete il sacco direi, poi se tu hai bisogno di berti qualche cosa in più, bravo, problemi non ce ne sono. Io sono segno, vengo, ti prendo e ti riporto a casa. Se hai voglia di bere, non c'è problema. Se tu fine settimana vuoi metti qualche bicchiere in più, non c'è problema, capito? Perché oggi con il cavolo di Ricci, l'amico mio non c'è pensato tutto, patente di fretta. Quindi, non è che uno si deve limitare, non bere anche se gli piace quel prodotto, per perché giustamente hai guidato la macchina e a me mi dà fastidio, cioè il cavolo. E ci ho dato il bambino, non lo so a me, per cavolo, perché ha paura di rischiare, invece no. Poi io ti prego, ti raccompagno, non c'è problema. Per me lui ha fatto anche, non vuoi problema, tra, capito? Io sono un amico con la maiuscola. Forse molte persone ancora non mi conoscono bene o non ho capito il segno della vicinanza, cosa vuol dire. Io ti ho capito io. No, va bene, io già ho visto cosa vuoi qui. Fabi due tazze di vino? No. Mangiando, io me li bevo sempre un bicchiere di vino anche a pranzo, oggi, ieri, sera, lo stesso, ma non sono più di quelli, assolutamente. Non ce n'è problema per guidare, Tony, figurati. No, per modo di dire, no, perché molti, a me mi è capitato negli anni passati, proprio il primo anno che abbiamo preso la campagna e non c'era questo problema del Covid eccetera, e c'era un aggregamento che non ti dicono, ma a livello di parentela e non di onde amicizia di baracchino, non ha giù amiche lo baracchino, ci ho solo conoscenti, tranne qualcuno, già mi hai capito, così non facciamo nomi, non si offende nessuno. Però dico, a livello di parentela, succede sempre così, no? Mezzanotte, sempre giacerendi, tazzitta, tazzettina, capito? Le cosettine, io non ne bevo liquori, ci ho smesso da una decina d'anni. Però dico, cazzo, cioè mezzanotte, l'una, ma ti parlo di sabato notte. Ok, io allora ero in turno, quindi è capitato proprio il sabato che ero libero, dovevo lavorare la domenica. E io già abbiamo in dubbi. Chi è che sta fischiando? Ma non è. Cioè, cazzo, nasce da te, no? Se sai che vuoi passare a casa alle 6 del mattino, anzi, alle 5 e mezza, perché alle 7 deve essere sul posto di lavoro. Cazzo, non è che puoi stare finita alle 2 di notte. Capito? È per quello, no? C'è gente che non queste cose non le capisci. Io le capisco perché se non devi andare a lavorare, non è che ti posso dire, oh, io mica è tardi, cazzo, devo andare a lavorare, ma non esiste, deve nascere da te. Quindi io ho sempre quel pallino. Quando uno deve andare a lavorare, a quell'ora devi andare via. Non è che puoi stare lì, anche se lui non ti dice niente o se le fa piacere. È un altro discorso, Tony. Capito? Io la penso così. Se poi siamo liberi tutti, che siamo in festa, si fa festa, è capitato tante volte, ma se uno deve andare a lavorare non devi essere coerente, cioè devi dire, oh, aiuto, ce ne andiamo perché Claudio deve andare a lavorare, non è che devo essere io a di tiro, è brutto, capito? Sì, ma io ho detto il mio coso per me. Per me non mi sembra vero, però ogni giorno se vado a fare visita sono un ufficio armato, qua. Tanti anni, solo, quindi niente, adesso è un periodo che insomma non ci fa, perché si fa, eccetera. Insomma, però sono amici, ripeto, gli amici sono sempre per voluti. E ripeto, a me non mi fa niente se io, anzi, magari faccio una bella serata in allegria per il di poi, domani vado a lavorare e sono così pacifico, tranquillo e serio. Anzi, a mio collega ha fatto una bella rostita, guarda. Cioè, capito? Io per me non ne ho più parente. Non sono, io sono abituato anche a coricarmi alle 2, io alle 5 sono in terra, dormo poco, capito? Poi sono molto leggero. Hai sbagliato il cane sotto mi sveglio, guardo un po' dalla finestra, sono tranquillo per questo. Ti ripeto, ben vengano Claudio, non ho problemi. Comunque, se a voi fa piacere venerdì, io sono un ufficio al mondo, volete il sabato, però è uguale, però non c'è problema. Vediamo giustamente il tempo, se permette, ok, speriamo di sì, perché la voglio fare questa bella rostita qua. Ho sempre due belle bottigliotte di quella cosa lì. Quindi, e poi, ripeto, io volevo fare la bella rostita perché di pasta ne ho le palle piene, anche oggi ho mangiato pasta, l'altra volta non la sono fatta io da solo, lo stesso con la pasta che fanno tu, guarda, troppo buona. Allora posso mangiare sempre ministra, che te la posso mettere un pancio, un villaga, bisogna pure un pochettino andare a dieta. Sì, ma infatti, non si può mangiare sempre pasta. No, vabbè, l'avevamo detto, la facciamo, Tony, approfittiamone ancora che c'è qualche giornata di tempo bello e si fa, non c'è problema. Anch'io sono così, non è un problema, io, guarda, guarda, mi colico tardi, tardissimo, io anche alle 2 sto ancora guardando la TV, se non mi addormento, mi addormento 10 minuti, un quarto d'ora nel divano, poi mi sveglio, mi guardo la TV fino alle 2, 2 e mezza, e poi a volte mi devo alzare anche alle 5 e mezza, alle 6 per andare a accompagnare a mia figlia al lavoro, capito? Se mi serve la macchina, se non mi serve la macchina non c'è problema, se il tempo è bello uso la moto. Però ad esempio martedì che lei di mattina, che è tempo brutto, ma devo alzare un bel presto perché lei deve aprire alle 7 il bar, però alle 6 deve essere lì perché si deve preparare il pasto, si deve organizzare eccetera, poi alle 7, 7 e un quarto apre il pubblico, capito? E quindi la accompagno. Va bene, va bene. Ok, comunque non ti preoccupare, già abbiamo tempo di aggiornarci, di fare, adesso mi hai detto, mi ha ricordato questa cosa del cavo, ti preparo questa roba qua e poi facciamo le comparazioni di quelle antenne, quella che va meglio lasciamo, l'altra la togliamo e te la rimetti in macchina. Ok, qua, ti ringrazio per il spazio. Non penso io cosa faccio ogni giorno, cioè come da malattia non so, domani vado a fare il nostro, cioè, a parte mi hanno tolto, io ci sono insieme a 5 da casa, e anche se ho permesso, e vado in campagna con questa padrone a prendere questa caricia di foglie macellaio che ho scritto la parte di fronte, e le porto a delle tre macchine, una lì a Paurato, dove c'è MD sul mercato. Ora c'è giù a lavorare, arriva alle 7, 7 qualcosa, 7 e 5, si sono fatto le 7 e mezzo. E poi quando esco a lavorare, se lo compagno di mattina, giustamente io vado alle 2 e mezzo, due sono di 2 qualcosa, però mi aspetta perché io tipo 2 e 10, a quando sono io sopra le 2 e 20, 2 e 25. E loro compagno che adesso fa la cosa mia. Quando lui purtroppo di sera, che deve essere due negozi, io non posso accompagnare perché sto lavorando il 10, lui è effettuale. Allora vado a prendere alla sera alle 8 e mezzo. Questa è l'amicizia, perché so, poveraccio, che a piedi abita in campagna, è disagiato, per prendere il tram deve farsi un chilometro e mezzo e se piove poi è piccio. Questa è la vera amicizia, Claudio. E molte persone non sanno cosa vuol dire l'amicizia. Non è solo l'amicizia di accompagnami qua, vieni su, capito, questo, quell'altro, cioè, l'amicizia si vede anche lì, si vede. Cioè, io ci tengo molto l'amicizia qua. E se c'è un preso amico che è in panne, io sono il primo, ripeto, posso e lo faccio di buon cuore. Sì. Mi ho sceso sempre i pantaloni per tutti, io, Tony, lascia perdere. Chiudiamo questo discorso. E poi per che cosa? Per essere preso sempre a calci nel culo. Basta, chiuso, finito. Adesso si viaggia come dico io. Chi risponde alle mie esigenze va bene. Il resto, ognuno per i cazzi suoi. Lo dico chiaramente, apertamente, così. L'ho detto una volta per sempre. Non me ne fotte nulla, metto, mi sto molto bene. Lo sai, te l'ho già spiegato. Ne ho parlato con te, quindi. Forse sei l'unica persona che in questo momento mi sto avvicinando a qualcuno, perché io avevo deciso proprio di starmene per i fatti miei, ma proprio per i fatti miei, con la mia famiglia, boh, e basta. Intanto mi stai considerato che sei sempre in mezzo ai casini, anche senza far niente, è meglio stare soli, perché molte persone appunto pensano di poter prendere per il culo la gente di 60 anni, invece non funziona così. Comunque, chiuso il discorso, Tony. Io ho sempre dato, ho ricevuto ben poco da tutti, ma ho sempre dato tanto e continuo a farlo, non me ne frega niente. Nel mio piccolo continuo a farlo, se qualcuno ha bisogno io ci sono sempre, e tu lo sai, però noi ci conosciamo una vita, quindi ti ho perso di vista, ti sei allontanato dalla radio eccetera, mi ha fatto piacere rincontrarti, farci due chiacchiere, importante, non farvi dare i gelameddi e lasciare stare la gente dov'è, a me cercare la gente quando non è presente, già te l'ho dimostrato, divento un cane, divento molto ma molto cattivo quando mi cercano senza motivo, quindi la gente che se ne stia al suo posto e faccia il suo lavoro, il suo dovere. faccia di guru e gli si come si dice, falsi che ti fanno una bella faccia davanti e poi ti pugnano alle spalle, sia in radio che fuori dalla radio. Basta così, Tony, siamo arrivati alla frutta oramai. Cosa stavo dicendo? Un'altra cosa, chiudiamo questo discorso perché non mi interessa proprio. Cioè, sto facendo poca di radio, non è che devo entrare in radio anche a parlare di queste stronzate. Cosa stavo dicendo? E come fai a portarlo via quel mobile di Emanuele? Ecco, la sala. E non è molto grande, è piccolino, mi ci metto un centimetro. Per... come dico tu, aspetta, ma è piccolino, è tipo con mulino. Ah, vabbè, tu già c'hai... abbassi il sedile, già ci sta una macchina tua. Ci sta che la lavatrice, per dirti. Guarda un po'. Soltanto che ho costruito, c'è stato anche quello, fatto quello che mi ha levato un centimetro altezza, con le gambe lunghe, pure. Ma a base si dice, infatti, ho fatto tutto, non c'è problema. Siccome ho dato l'altra mano di impregnante che è molto odore bruttino, tipo un'acqua con il mare giocchio, insomma. E quindi non faccio la farina di fuori, perché giustamente il Manovero lo ammazza la notte, si rapporta a stazione, però com'è quello con il Manovero, così, altro odore. Ho messo la farina comunque, guarda, come l'ha voluto lui, mi ha fatto di zero, io l'ho fatto uguale, identico. Poi Claudio, ripeto, amici pochi, la piccina, non mi interessa. Se hai bisogno di qualcosa, ho visto la prefettura che c'ho, non ho problemi, Claudio. Ti dicevo prima di qualcosa, però certo non ti posso portare a scuola circolare che è grande, viene male a portarla. E niente, la avvocatrice non c'è problema, c'è fare questo, pronti, qualsiasi cosa ti serve, non c'è problema. La prefettura, grazie a Dio, non mi manca. Non mi dico, aspetta Claudio che c'è per chiedere un qualcosa a un tizio, ma no, non è vero, io lascio contatto perché potrebbe essere potuto vivere, fatto il fatto usato. Quindi, qualsiasi cosa ti serve. E come che ci ha fatto, non c'è problema. Già l'ho visto. Ne hai un bel attrezzatura. Fosci ordinatissimo, hai tutto ciò che ti serve. Non c'è problema, no, figurati. E abbiamo già parlato di questo. Va bene. È che ci deve essere sempre un riscontro, Tony. Capito? Mamma diceva sempre, se vuoi che l'amicizia si mantenga, un piatto vale e l'altro venga. Capito? Nel senso buono, che se io faccio una cortesia a te, tu la devi fare a me, al momento che serve, e così via, deve essere reciproca. No, tu mi te l'ho già detto io. Io se mi muovo di casa per andare a farmi due chiacchiere e a stare in compagnia un paio d'ore, non più di tre persone, te la giudi tu, se no mi rimango a casa. Ho finito di stare in mezzo alla gente che, ti ripeto e ribadisco, ti fa la bella faccia davanti e poi dietro ti prende per il culo, capito? L'ultima di una persona che non mi sarei mai aspettato proprio, a livello proprio di ragazzini, cazzo. Manco mai, il massaggio non oggi va vedato male in su, se no si può fare una cosa del genere, per carità di Dio. Vabbè, chiudiamola qua. Ma Emanuele dove è andato a mangiare o dove è andato? Che non si può tremare i gatti giù. Non lo volevo dire, tanto, ma cioè, la realtà è chissà. Ok, mi ha preso, mi ha chiamato, non ha risposto. Emanuele, niente, ogni tanto fa cuore X e cuore T. Ha detto, Emanuele, ti fa male la schiena. Non ti immaginare le mani, apri il microfono e rispondi. Mi ha detto, anch'io ci sei bucciare lì. No, ma ha detto che non le sta neanche più facendo male la schiena, che quella cura che ho fatto io le sta facendo bene. Io la sto facendo, però ciccia per far bene sul momento. È un attimo olimpico, capito? Però c'è questo qua, giustamente a lui che fa molto più efficace di me, perché ti spiego. Io faccio quella cura dove non è a riposo, non trovo di aria, vado a fare, fai quello, fai quello, se non sto mi fermo, e mi si infiamma sempre di più, e c'ho tutto il capo. Lui prende il procedere perché non sta lavorando automaticamente, e mi dispiace che quello comunque, giustamente riesce a fare quella cura. Io con la cura, se la faccio, bisogna mettere almeno 10 giorni di malattia. Però c'è una cura come si deve. Ma io quello ho fatto io, quando io ho fatto la cura, era in malattia. Mi sono messo in malattia perché non riuscivo manco a muovermi. Ho fatto la cura e quando poi sono stato veramente bene, che ho finito la cura, sono rientrato. Mi pare avevo fatto 15 giorni più 15, perché poi è andata a visita il controllo ortopedico, mi ha detto no, non ti faccio rientrare, e l'ho fatto altri 15 giorni, quindi un mese stando fermo, facendo la cura per un mese, caspita, sono rinato. Poi il fatto, già mi hai visto, il fatto che abbia dimagrito 10-12 kg è molto importante, perché il peso è calato, e quindi è chiaro che mi sono messo in sesto. Però Manuele mi ha detto che le sta facendo bene quelle pastiglie che ho preso io, quindi sicuramente perché sta facendo la cura e allo stesso tempo non sta facendo sforzi. Infatti ti ricordi, abbiamo detto che dobbiamo fare quel lavoro dell'antenna, e aspettiamo che siamo appunto in condizioni di poterlo fare, tagliare quel tubo e fare insomma quei lavori che dobbiamo fare, perché così almeno lui è più tranquillo, perché visto che non abbiamo montato quell'antenna, tolto il disco da te, cazzo, quella vasia manca a caricare. Sì, ma io qui lo vedo anche più dritto, non è più come prima, tutto grosso, poveraccio qua, e quindi io vedo anche migliore, giustamente ci vuole riposo qua, ma io sono il tipo che stringo i denti e vado a lavorare qua, a me queste malattie mi sono rotte le palle, a meno che poi la fine quando non ce la faccio più di così, signori belli, lasciate un po' riposo da fare questa cura, perché io come ho recuperato altri due numeri di telefono, se riesco a farmi fare il laser, vado, non lo faccio, non ne parlo più, no? Perché cavolo, che tanto vuole camminare a piedi, basta con la macchina. Fare tante cose, ma molte volte me le impedisce, vedi quel mobiletto di Emanuele, facevo 3-4 di questo mobiletto, perché arriva a un certo punto che mi fa male, mi devo sedere e quindi non posso continuare, ma vedete, lo metto in fretta, lo faccio piano piano, e glielo fa, e poi glielo finisco. Purtroppo mi capisci giustamente che lui sa cosa vuol dire quel dolore, cavolo. E non le puoi fare manco, è inutile che ti sei 10 minuti e poi ti alzi, ti riesci a lavorare e poi torna e ti viene un dolore. A lavorare sono 6:40 da una scuola all'altra, per le scale incendi, e prendi altre cose in macchina e cammini, quando cammino molto sono per azionare, oppure prego dici. Fino a che arriverà un giorno dico qua, dai, mi riposo un mesetto anch'io, faccio la benedetta cura se non riesco a fare questo benedetto l'altro. E voglio farmi a riposo e farmi la passata, che ho tanta voglia di camminare tranquillamente, ma no, mi danno un sogno qua. Ehi Tony, ma guarda che a me l'ortopedico, lo sai, Mario di Alghero, figlio di professor Medis, mi ha detto Giancarlo, guarda che il laser sì, può essere efficace, non può essere efficace, lui che me l'ha data quella cura, capite? A me l'ha entrata, me l'ha data lui, mi ha detto tu prendi queste pastiglie, ne prendi una alla mattina e una alla notte, ok? In modo che bilanci, altrimenti se la prendi a pranzo ti devi alzare alle 2 o alle 3 di notte perché devono passare quelle ore a prendere. Ho detto no, ma se poi non mi sveglio è un casino, faccio così, e ne prendevo una la mattina dopo colazione, ok? Facevo una colazione abbondante, poi magari a metà mattinata mi mangiavo anche il panino verso le 10, e poi la prendevo la notte dopo cena, prima di andare a dormire, e ti dico che sono bastati una quindicina di giorni per sentirmi veramente bene, ma se lo dire bene, io andavo a lavoro veramente bene, con entusiasmo, cazzo, io quando andavo a lavoro, iniziavo a prendere la macchina in servizio, mi sedevo, era una cosa allucinante, non riuscivo neanche a alzarmi dalla macchina, molte volte per fare le letture, per fare i controlli, si alzava il mio collega che era a fianco, capito? Già è vivo e vegeto, già abita in via Grazia Veleda, Gabriele, capito? Si alzava lui, io stavo sempre alla guida, poi quando arrivavamo all'impianto allora mi facevo un giretto a piedi, ma sempre tutto barredotto, tutto gobbo, tutto a dolori, era una cosa allucinante. Ho iniziato a star bene quando ho fatto quella cura e sono stato a casa fermo, soprattutto era il periodo invernale, me lo ricordo, quindi c'era molto freddo e dovevo stare al caldo senza prendere freddo, e mi è passato, Tony, tu figurati, io sono 2 anni e mezzo a casa e 2 anni e mezzo che io non ho più, diciamo 2 anni pieni che io non ho più quel dolore, e posso fare quello che mi pare piace, anche arrampicarmi sui muri, perché veramente me l'ha sistemato, si deve essere calcificato proprio, capito? E quindi non ho più quell'infiammazione come a Manuele o hai tu. A Manuele piano piano, se lui fa bene quella cura, quella gelatina inizia a calcificarsi, non sfrega più, non si infiamma e il dolore non le viene più, a meno che non faccia degli sforzi particolari. Io ho preso già anticipato il qua. E giustamente non posso dire se non ho fatto niente, perché io sento che sto in faccia, però poi la mattina vado a lavorare e tutto il campo. E devo decidere e dire: signore Billy, io mi fanno malattia, non mi piace, sai perché? Ti spiego, a marzo noi non abbiamo mai chiuso il coronavirus, niente, sempre lavorato, abbiamo avuto quell'incidente che compilava l'amico mio, poi non si è trovato il sotto, insomma, 2 mesi di fortuna, niente a lavorare, e il medico della azienda mi ci mette per 2 mesi per coronavirus, perché sono cardiopatico, quindi sono soggetto a tormentare per il coronavirus. Ha 2 mesi a casa, ne ho fatto 4 mesi a casa. Quindi prima ancora dolori così non ne avevo, perché io ho fatto mobilità su mobilità tranquillo. E quindi niente. Ora che ora invece, porca miseria, questi cavoli dolori, ecco perché. Sembra anche brutto andare malattia, è stato 4 mesi, se ne è entrato a luglio, il 18 luglio se ne è entrato a lavorare, e cos'è fatto? Agosto, poi abbiamo chiuso una settimana, poi si è iniziato a lavorare, siamo in 17 ore tirando le malattie, ecco perché non voglio avere malattie, capito? Però giustamente io mi sento male, cavolo, mi vedono anche loro che cammino anche come cammino, cavolo. Potete far passare un altro pochettino e poi me ne metti malattia, non lo so. Antonio, il tuo lavoro non è buccia di gioco. Sei appeso al trapattello e sali e scendi nella scala e tira a cavi e piazza quella e trabano e tira e molla. E se fossi stato impiegato, allora è diverso. Sei un po' più rilassato, seduto, si ti muovi, però non fai sforzi, capito? Ma purtroppo il tuo lavoro è elettricista, quindi è chiaro che ti muovi e fai tanto. No, devi decidere, se tu vuoi star bene devi stare a casa fermo, rilassato, momenti che sei a riposo, tranquillo e sereno, rilassato, capito? Fai la tua cura e tu vedrai che quando vai a lavorare non ce l'hai più quel dolore assillante che ce l'avevo io, perché è una cosa veramente impressionante, bruttissima, molto brutto, mamma mia. Non riuscire a muoverti nell'ambito lavorativo, ma anche nell'ambito a livello personale. È molto brutto, perché io tante volte devo fare qualcosa, anche mia moglie dice, vuole starti le tende, ma sì, io non ce la faccio, mi fa male la schiena. Allora le toglieva mia figlia, capito, magari non avevo la scala, stavo attento, le toglieva lei. Sono cose brutte. Adesso, grazie a Dio, ti dico che sono a posto, veramente a posto. Non c'è nessun problema. Che ora si è fatta? Le 8:20. Dai, un altro paio di passaggi e poi chiudo, che mi sa che è pronta la cena. Io mangio le salve giri, diciamo, che oggi mangio per la pasta. Sì. Che lo so, qua. Io questo mese ho pensato 6 anni, qui. Ma sono ragazzino, quindi lo so, mi devo mettere a riposo, inutile. Cosa che volevo dirti, ma solo quelle pastiglie e basta, là, altro prendevi tu. No, solo le 3 in pastiglie e basta. Ho detto, sono quelle che sta prendendo Manuele. Due volte al giorno. E basta. E ogni 2-3 giorni prendevo un gastroprotettore, perché a volte mi bruciava un po' lo stomaco, siccome io ho anche reflusso gastroesofageo, no? E quindi mi bruciava un po' lo stomaco, allora prendevo l'esoprazolo, capito? Proprio per proteggere un po' lo stomaco, però solo con le pastiglie. Ho capito. E vabbè, dai, non io, ma mentalmente oggi non ne prendo più, perché ripeto, appena mi decido di mettermi a riposo, datemi il morbetto, ho già finito, ma non vabbè. Io a parte elettrico faccio anche l'idrico, ma da poco l'ho fatto il motore teclato, l'ho preso da solo, insomma io più di 12 kg non posso sollevare, invece che lui faceva il tempo, anzi mi è andata bene, perché se sono motore di anticidio, però sono 120 kg, sono enormi, ogni giorno faccio la foto e faccio vedere quanto sono grandi. Il pilota già pesa poco, ma ha 2 motori enormi, quindi è pesante. dice Fortunato, poi attacchi di sennò sulle 120. E vabbè, non è tanto, diciamo, poi cambiare che camminatore, quando si da solo non è così facile, no? 2:37 la mattina, volare i due dai laterali, smontare tutto, 2:30 la mattina da solo, smontare mi salto il vecchio, che ero ginito, casino, va, e allora c'è tutti di nuovo per la mattina, insomma, e cambiare quello, rimettere la posta da solo, mettere i vini, sono corti, metti sotto, vincere. Sono sporti che, insomma, una persona di una certa età non è più, che sì, sono giovane, 20 anni, lo fai giocando, capito? Però non lo facciamo, ci sta. Poi sui giapizzini che non è più bene tra la guerra, ci parliamo. Allora, beh, io ho avuto 20, 30 anni meno, cazzo, tra le tre farlo, difficile, ma tutto, gli anni me l'ho passato, ho sempre lavorato. Sta arrivando anche per me meno 11, sto contando perché tanto lavoro fino a volta, vado in ferie e non torno più perché mi prendo un mese di ferie e poi se ti prendo la pensione ti abbia più studiati. E come ho fatto io? Come ho fatto io? Io dovevo andare a novembre del 2017 e invece ho aspettato, cioè il 2018, scusa. Invece ho aspettato, però sennò io potevo andare da novembre del 2018, invece ho fatto tutto il mese di dicembre, poi il 23 abbiamo fatto il pranzo a Montentoso, capito? Ho fatto il pranzo a Montentoso con tutti i miei colleghi, con tutti i dirigenti, eravamo una quarantina della mia zona, l'altra me ne ha fatti nulla e basta, non sono più rientrato. Quindi mi ho fatto il primo anno che ho fatto il Natale e Capodanno a casa, perché tutti gli anni o lavoravo a Natale o ero libero a Santo Stefano, lavoravo a Santo Stefano e ero libero a Natale. Poi il primo sempre di turno perché è inizio anno, quindi devi farti tutta la contabilità dell'anno precedente, chiudere tutte le cose e consegnarle entro una settimana, perciò ho sempre lavorato e anch'io ho fatto così. Quindi tu farai la stessa cosa, prima di Ferragosto vai in ferie e saluti. Come ti aggiungo, ci arrivo, uno ce n'è, nel secondo cassetto, e ancora siamo, non sappiamo dove abbiamo messo ancora la roba perché avevamo montunato tutto. Va bene Tony, un abbraccio grande, grazie delle due chiacchiere, dai, e poi ci accettiamo domani mattina, chitto chitto noi, no, non c'è problema, tanto io esco presto, perché poi alle 10 devo tornare alle 9, portare il cane, poi alle 10 devo andare in banca. Ok, ci aggiorniamo via WhatsApp e poi ci mettiamo d'accordo per questa antenna, domani mi metto a parte il materiale che serve e poi ci organizziamo per farci una mangiata di carne, ok? Ok, d'accordo, grazie, io mi preparo qualcosa. E ci sentiamo domani, ciao, buon carica batteria, saluto la Correa, alle prossime, ciao, grazie anche per la chiacchierata, ciao Tony, poi ci sentiamo dopo il telefono, ciao. Ok, ciao. Buonanotte a tutti, mi stavo ascoltando, buonanotte. Tanto scusa, ciao, io vado a preparare il carica, ciao. Ciao Anto, perdonami, ci sentiamo, un abbraccio anche a te, ciao. Ciao, buonanotte, no, mi stavo ascoltando molto volentieri, perché era al piano di giù, e siccome la passiamo anche lo su. Adesso salito su, adesso vi saluto, ciao. Ciao Anto, buonanotte anche a te, ciao. Ciao a tutti.